You are listening to Radio Flash. State ascoltando Flash Out, un programma di Roberto Vaio. Radio Flash, è una buona serata a tutti voi da Roberto Vaio. Inizia Flash Out come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 20:50. Prima di iniziare la trasmissione devo salutare la mia fan preferita, forse c'è solo lei, non lo so, ma è la mia preferita di sicuro. Quindi un salutone, un bacione a Elettra e salutiamo anche Mirella e Francesco che sono all'ascolto. E allora questa sera Flash Out non sarà come ogni lunedì, il classico blobone che tutti voi conoscete, costruito in diretta con la TV e le notizie prese da internet, ma ci sarà un argomento che affronteremo qui in studio con il signor Miglino. Ciao Enrico. Ciao Roberto. Come andiamo? Bene? Bene, bene. Bene, un po' che non ci si vede. L'anno scorso ci si vedeva più spesso perché tu eri anche meno occupato e soprattutto ti trovavi di più dalle parti della nostra bella Torino. Anzi, diciamo che eri più occupato, ma qui in Torino. E allora ci siamo trovati per diversi appuntamenti dove abbiamo anche parlato di Contesti, che è il meraviglioso sito che tu curi e che adesso ci racconterai. E invitiamo già tutti gli ascoltatori ad andare su www.contesti.com, così mentre... EU. Ah, punto EU, scusami Enrico. Così almeno riuscite ad ascoltarci in tempo reale e nello stesso tempo a vedere di quel che stiamo trattando. Quindi Enrico, c'è un tema decisamente caldo questa sera da affrontare, vuoi lanciarlo? Ma il lancio che è avvenuto già da un po', che sta facendo una certa riscontro, che è un documentario che abbiamo realizzato con la Fondazione Accorsi di Torino, che è un museo che pochi conoscono ma che merita sicuramente di essere visto. Diciamo che Accorsi era... forse il più grande antiquario sicuramente d'Europa. In Europa di sicuro, e c'è la bella Fondazione Accorsi che si trova proprio in via Po, angolo piazza Vittorio, e 56, e tu hai fatto il documentario. Io però ho restaurato delle cose all'interno della Fondazione, tanti anni fa, non così tanti, diciamo che non sono di nuovo da restaurare quei lavori, sembrano ancora nuovi, quindi non sono passati tanti anni, ma conosciamo in parecchi, ebbene, la Fondazione Accorsi. Mentre questa sera trattiamo... Questo è un documentario strano che all'inizio ha lasciato qualche perplessità, che poi in realtà è decollato bene, perché come al solito abbiamo fatto degli esperimenti di comunicazione, per cui è nato come un lavoro fatto in modo particolare dal punto di vista delle riprese. Abbiamo raccontato un museo come sarebbe piaciuto a noi visitarlo, quindi uno non si può aspettare di vedere tutto il catalogo, ma è una cosa fruibile, diciamo un racconto in immagini con due o tre chicche. Una è che la Fondazione Pietro Accorsi, come tu dicevi giustamente, Pietro Accorsi ha lasciato tesori che risalgono al periodo 700-800 e qualcosa anche antecedente, quindi è molto particolare il fatto che la colonna sonora che accompagna questa visita guidata molto strana sia stata fatta da Alex Stirner, che è un produttore di musica elettronica. Di musica elettronica. Elettro pura, anche molto particolare, molto, molto marcata. Quindi si evidenzia così la ricerca minuziosa del suono, perché comunque chi fa musica elettronica a quei livelli è comunque uno scienziato del suono digitale, lo possiamo confermare appena... È un mix tra creatività musicale e creatività con il computer, quindi... Eh sì, anche perché adesso aprendo una piccola parentesi sui lavori dei DJ, ci sono magari tanti dischi dove la traccia principale è quella che si balla in discoteca, poi ci sono tante volte dei B-side dove il DJ si lascia andare, esatto, magari anche al proprio gusto musicale, e lì si scoprono delle chicche che quando ad esempio le mettiamo in radio arrivano degli SMS, ma chi è questo qua? Poi a volte fa il nome di un DJ che uno riconosce solo per il suo tunz tunz tunz e non si capisce più nulla, però è anche vero che appunto la ricerca sonora è assicurata e l'effetto anche, ma poi c'è anche qualcosa, esatto, di più, lo sai bene, un'altra grande chicca è un amico comune che è Maurice Agosti in forse arte. Raccontalo tu chi è, che quando ci siamo rivisti l'abbiamo anche presentato in occasione, è passata una giornata meravigliosa, il principe Maurice, molti lo conoscano perché comunque è un personaggio della notte italiana conosciutissimo, un ottimo e spettacolare performer, che però anche lui è un adoratore della cultura con la C maiuscola, e allora sentire la sua voce commentare un museo sostenuta dalle tracce costruite da un DJ è veramente meraviglioso, perché alla fine hanno fatto praticamente l'esatto contrario di quello che fanno nella vita e l'hanno fatto benissimo. Esatto, mixando, scusami la parola, mixando proprio in modo particolare, tra l'altro anche le emozioni che trasmette il direttore del museo Arabella Cifani e lo stesso Giulio Ometto, che è un po' l'erede sia storico che reale di Pietro Accorsi, che quando è morto gli ha lasciato tutto il suo patrimonio, che poi lui ha trasformato in fondazione e museo. Quindi la cosa curiosa è questa serie di elementi che emergono ma insieme si miscelano in una camminata attraverso le 27 stanze con tutta una serie di cose curiose, dalle riprese alla Shining all'inizio attraverso tutto il corridoio, fino al modo di raccontare le cose che contrasta tra un direttore entusiasta e una voce cadenzata, perfetta, fatta in studio, che è quella di Maurice, che invece racconta la parte più tutto fuorché un lavoro istituzionale, diciamo. Ecco, quindi a questo punto salutiamo anche Sandro Gianotti, il direttore dello studio Java, che ha collaborato con voi alla realizzazione. Sì, ha fatto una grande partecipazione portando l'audio della voce a un livello decisamente interessante. Decisamente interessante. Lo studio Java si trova a Trana, ma molti lo conoscono perché Sandro Gianotti tanti anni fa aveva lo studio a Moncaglieri e andavano in parecchio. Sembra che siamo tutti dell'età di Accorsi, sono tutti tanti anni fa, vabbè, stiamo parlando magari nel caso di Gianotti degli anni 80. Adesso si è spostato in questa casetta di legno in mezzo alla natura e sembra veramente lo scienziato del suono, che devi proprio andartelo a cercare se vuoi avere risultati perfetti come quelli che crea Sandro. E allora questo video documentario come si fa a trovare? La cosa interessante è l'altra chicca, diciamo, no, di questa operazione, che come abbiamo già detto altre volte, poi riappariremo presto perché siamo di nuovo su Torino a fare diverse cose, contesti, è per la condivisione della cultura, della conoscenza, quindi non solo parla di cultura ma parla di cultura in modo che sia il più possibile fruibile a tutti. Questo esperimento, diciamo, perché all'inizio è stato sicuramente un esperimento, intanto con un ente serio, tra virgolette, no? Che è un museo, una fondazione, ha un suo passato storico di grande rilievo, che ha accettato di buon grado l'idea di creare un lavoro che potesse essere distribuito anche gratuitamente. Difatti, la cosa particolare del documentario è che viene venduto dalla fondazione al museo, al bookshop del museo, come uno può comprarsi il catalogo, può comprarsi il DVD, ma nello stesso tempo si può vedere in rete. E in più, per rendere ancora più, dare enfasi a questa idea del distribuirlo, e che questo, per dimostrare, primo esperimento in Italia che credo, che il fatto di distribuire in rete delle cose non ha minimamente messo a repentaglio la sua comunque valore commerciale, la sua vendibilità, lo stiamo distribuendo attraverso Contesti proprio ogni settimana. Sono 11 capitoli, noi abbiamo cominciato 6 settimane fa e andremo avanti. Ogni settimana viene messo online un capitolo nuovo e con tutti i capitoli vecchi che sono sempre visibili, quindi al termine delle 11 settimane il documentario si potrà vedere sia in rete gratuitamente, scaricarsi, uno può farne sostanzialmente quello che vuole, e nonostante questo chi va a visitare il museo ha voglia di avere magari il DVD che glielo racconta in modo diverso da come lui l'ha visto o come sta per vederlo, e quindi le due cose possono coesistere perfettamente. Quindi digitale gratuito e acquisto del CD hanno tutte e due un fascino particolare, nel senso che vai al museo piuttosto che il catalogo, scusami, ti prendi il CD oppure te lo guardi una volta alla settimana, appunto. Esattamente. Su Contesti. Ecco qua, tra l'altro voi siete un sito decisamente conosciuto, quindi grazie a voi anche la nostra bella fondazione, dico nostro perché è qui a Torino, viene divulgata. È proprio il caso di dire nostro, l'approccio è proprio quello di renderla fruibile a tutti. Benissimo, adesso un po' di musica e poi torniamo con Enrico. Never know the rule, they never did go to basement, that's full. But we're doing it, they're be a silly make sure that the next week, they may not kill him. Now we have to tell him, we got a good quality, you have to see now, it's piano, me, can't have it, I love music, that's why we put on the carriage, if a guy want to get to it, he's dead. I knew. Now we're going to go. Now we're going to go. Jump, yeah, yeah. Yeah. them a fool. Never know the rule, they never did go to basement jack school. But we really fit it, them via shilling, make sure it's not the next victim in a killing. Carry up the knowledge, we got a good quality. Plus in a history, I know me economic. I love music, that's why we bust up the garage. If a guy like me, minuti primi, e vi ricordo che siete sempre a stretto contatto con le mitiche frequenze di Radio Flash 97.6. Questa sera è con gran piacere che riparliamo del sito Contesti, Enrico. E allora, un sito che comunque è parecchio seguito, quante visualizzazioni abbiamo avuto nell'ultimo piccolo periodo? Febbraio, ho controllato ieri, diciamo, siamo sui 33-34 mila accessi, gennaio sono stati circa un po' più di 150 mila accessi. Ma la cosa interessante credo che è la variazione dei contenuti, che mette di fianco cose anche molto distanti fra loro, no? Cercando di non creare una zuppa, ma di creare un discorso continuo, quindi prendere gli argomenti, iniziare a parlarne attraverso tutta una serie di aspetti. Sì, possiamo anche dire che va dall'arte alla realtà, e siccome spesso e volentieri l'arte rappresenta la realtà, a volte si trovano due argomenti diversi ma che hanno a che fare sempre con un fermo immagine sul presente, possiamo dire, che coinvolga tutte e due le situazioni. A volte sembrano diversi, però poi è la stessa cosa rivista da due punti differenti, quello della finzione che riprende la realtà e quello della realtà che a volte sembra finzione. Adesso non vorrei fare però è abbastanza, in realtà è calzante, diciamo, anche perché in effetti credo che un segreto del successo, cioè che poi abbiamo scoperto noi stessi essere tale, è proprio il fatto di parlare degli argomenti in modo diverso, in modo diverso, non da dire famo lo strano, ma affrontandoli da diversi punti di vista. Questo anche grazie a collaboratori diversi fra di loro, che ognuno ha delle competenze particolari, eccetera, no? Quindi abbiamo parlato un po' andando a cercare anche, no, le persone che ci possono raccontare in modo particolare certi argomenti. Stiamo lanciando adesso, e ne parleremo ancora perché è proprio all'inizio questa campagna legata a un convegno che faremo come comunicazione, lavoriamo insieme agli organizzatori il 26 febbraio, che è un argomento pesante, un argomento duro, che è lo stalking, di cui c'è una legge, di cui ci sono dei patrocini, delle partnership forti, la Polizia di Stato con la Questura di Torino, il COISP, che è il sindacato indipendente di Polizia di Stato, ci sono grosse strutture. Ci sono grosse strutture, quindi parlarne in modo tragico, affrontando solo la tragedia, diventa un po' troppo pesante, e poi alla fine quello che ci interessa è che la gente ascolti, e quindi bisogna raccontarglielo in modo che lo possano ascoltare nel modo migliore possibile. Quindi infatti, dall'articolo che parla di stalking in generale, all'immagine scelta per rappresentare un caso, la violenza non nera, cupa, ma tutta bianca, tutta chiara, che lascia un filo di speranza, con una ricerca anche sul discorso fotografia e arte, se vuoi, al fatto di cominciare a parlarne attraverso una criminologa che collabora con noi, che è Lorena Steri, per quanto riguarda gli aspetti più di criminologia, un'altra collaboratrice di Napoli, che è Gloria Esposito, che ha un taglio molto giornalistico, lavora anche col Mattino, scrive molto, è molto sulla cronaca, quindi affronta gli aspetti delle leggi regionali piuttosto che altro e così via. Quindi da cercare di coprire un po' il quadro, e anche perché così la gente forse si può fare un'idea autonoma e avere un suo punto di vista. Certo, perché come direbbe ad esempio un Oscar Wilde, fino a quando una cosa la rendi tragica e terribile diventa addirittura affascinante, quando invece poi vai a fondo a vedere nei minimi particolari il tutto, lo squallore è l'unica cosa che resta e quindi magari qualcuno impara un po' meglio. Sì, si trasmette in modo più chiaro un messaggio che non è caricato di emozioni, ma le emozioni le sceglie e le lascia nascere chi le vede, chi vede, diciamo, le cose. Che anche il mondo del digitale ha una freddezza sottointesa che da lì non si scappa. Sì, questo sicuramente permette di modulare meglio le emozioni che vuoi trasmettere, questo sicuro. After the strolls in the purple haze. eccoci qua, vi stiamo parlando di Contesti questa sera, questo meraviglioso sito che ho occasione di presentarvi a tutti voi torinesi, a tutte voi torinesi. Eccoci qua con Enrico. Allora Enrico, capita spesso e volentieri, anzi capita forse sempre, che uno stesso argomento nel vostro sito venga affrontato dal punto di vista reale, quindi della cronaca, e dal punto di vista magari di un artista che si sta approcciando magari in tempo reale allo stesso argomento che voi state discutendo, oppure anche voi a volte ingaggiate qualcuno per fargli, insomma, raccontare a modo suo il tema. Entrambe le cose. Ecco. Sono tutti e due metodi in effetti efficienti per trattare un argomento in modo ampio. Ad esempio, in questo momento è un periodo in cui almeno 2 o 3 settimane che un nuovo collaboratore, che si chiama Ezio Olivato, sta cominciando a firmare tutta una serie di articoli che sono biografie apposta buttate lì, che non si sa bene come mai a un certo punto usciamo così con queste biografie, di personaggi legati all'esoterismo, che in realtà sono collegati a un certo circuito che parte da 2 secoli fa, perché a un certo punto, volendo affrontare anche dal punto di vista criminologico, dal punto di vista attuale, tutta una serie di paure giustificate o meno, o comunque non sempre viste nella giusta ottica, legate alle sette, al satanismo, a come questo può devastare determinate persone deboli, prima nascono queste biografie che affrontano da Aleister Crowley, è stato il primo, ai personaggi più strani che hanno fatto parte di questo circuito, fino ad arrivare al contemporaneo, e poi andare a vedere che cosa queste persone non solo hanno fatto, ma hanno lasciato come eredità, a volte molto triste, che è diventata oggi un punto di rischio per moltissime persone. Quindi si passerà al discorso degli aspetti criminologici, si passerà agli aspetti psicologici, e vediamo che al di là dei collaboratori, diciamo, della redazione, molti personaggi anche che possono essere coinvolti perché in quel momento sono esperti e accettano sempre di buon grado di affrontare l'argomento, perché si trovano in un contenitore in cui è evidente che non ci sarà una presa di posizione dettata da qualche cosa, ma si cerca di dare una visione il più possibile ampia, e quindi inevitabilmente più obiettiva di quello che può essere una crociata, ecco. Ascoltando Flash Out, un programma di Roberto Vaio. Radio Flash, no, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI ed Esclusiva Club to Club presentano RAI Nuova Musica 2010, The Future Sound of Classical. 6 serate di musica contemporanea ed elettronica all'Auditorium RAI di Torino, dal 4 al 19 febbraio. Un'occasione unica per ascoltare le novità e scoprire le tendenze che provengono dal mondo musicale di oggi. Informazioni su orchestrasinfonica.rai.it e allo 011 81 04 653. Black Market Night presenta The Wailers, HMA, sabato 13 febbraio. The Original Wailers tornano in tour europeo portando ancora avanti lo spirito e l'influenza musicale del leggendario Bob Marley. Gli unici, The Original Wailers. Ascolta il loro richiamo. Sabato 13 febbraio, HMA. E a seguire Black Market Night con DJ Pony e DJ Grissino. Infoline hiroshimamonamour.org. Giovedì 11 febbraio, HMA, calibro 35, rock, funk, soul, il rumore del torbido e potente sound dei calibro 35. Tra rivisitazioni dei classici del passato e brani originali, i calibro 35 presentano il nuovissimo disco. Appuntamento con poliziotteschi a gogo e nuove composizioni. Giovedì 11 febbraio, calibro 35, dal vivo a Hiroshima Mon Amour. Infoline hiroshimamonamour.org. Perché investire sulla cultura? Perché la cultura fa vivere meglio, perché fa crescere il territorio, perché incentiva il turismo, perché assicura posti di lavoro. Oltre 42.000 persone in Piemonte hanno uno stipendio attraverso la cultura. E allora vogliamo continuare a fare ciò che abbiamo fatto in questi anni. Quando abbiamo riaperto la Reggia di Venaria, creato il Circolo dei Lettori, rilanciato il Torino Film Festival con Nanni Moretti e Gianni Amelia, portato le mostre Guggenheim a Vercelli e il Teatro Regio Racconigi. Per questo sostieni la mia candidatura. E il 28 e il 29 marzo vota per Cedespresso e accanto al simbolo del Partito Democratico scrivi Gianni Olina. So E dietro le quinte noi ce la contiamo un po', perché Contesti, ovvero il sito che di nuovo questa sera vi stiamo presentando, ed è www.contesti.eu, insomma racchiude in sé veramente di tutto, di più, e soprattutto personaggi da tutte le parti, giornalisti, artisti, firme anche importanti della stampa, di tutto, poesia, c'era anche una pillola, mi ricordo, Freak Memories a cura di Bruno Panebarco, lo scrittore di Fedeli alla roba, edito da Stampa Alternativa, e si va magari a una giornalista del Mattino che fa il suo articolo. Insomma, Enrico, è veramente un sito da andare a vedere. Sì, continua a leggere in modo continuativo, perché gli strumenti che sono legati a questa nostra filosofia di redazione, che è la condivisione della conoscenza, cerca di andare a prendere delle cose originali che non tanto che interessi ne basta, ma che portino anche avanti un discorso che si apra verso l'esterno anziché chiudersi su un argomento. È il caso dei mural che popolano il sito, perché sono iniziati come un interesse di studiare questo fenomeno che è legato alla scrittura, e qui di nuovo è uscito un pezzo di Gloria sul linguaggio usato dai writer, un pezzo di Antonella, Maria Antonietta Ricagno, che è anche l'editore che si occupa di linguistica, quindi affrontato dal punto di vista proprio un po' più scientifico, all'amicizia con il KNZ, un grosso gruppo, grosso in senso di famoso, gruppo di writer che fanno delle opere, che hanno realizzato un muro per noi, e poi pian piano attraverso gli strumenti tipo il girare dei corti, che non sono soltanto un documentario ma è proprio lo strumento che noi usiamo per raccontare la realtà, andare così a dare una visione ampia di questo fenomeno, che di nuovo è un fenomeno di cui se ne sente parlare o benissimo o malissimo, ma non si capisce dove sta la realtà. E infatti, perché c'è chi critica, c'è chi non critica, poi anche tra i writer ci sono quelli bravi, poi ci sono quelli che non sono assolutamente capaci, che vanno in giro soltanto a imbrattare i muri perché non sono capaci a disegnare, allora purtroppo devono dare un loro segno e vanno a sporcare veramente la città con quei nomignoli, quelle schifezze che veramente qui proprio lo affermo, fanno proprio schifo. Poi tra di loro si parla anche di crossare, ovvero non andare sopra un'altra opera d'arte, sopra un'altra situazione. Ecco, sappiate che i monumenti sono opere d'arte, sappiate che i palazzi antichi della città sono opere d'arte, quindi andando a scrivere sopra il vostro nomignolo state crossando in un certo senso qualcun altro, e questo me l'ha insegnato un grande writer, anche perché uno capace non penso che vada a imbrattare i muri, perché poi se glielo cancellano dopo ci resta un po' male, quindi il bravo writer va insomma a restaurare, diciamo, magari delle parti della città diroccate e abbandonate e le ravviva. Decisamente diverso, lo dico senza conoscere neanche tanto la cultura hip hop, da chi va a scrivere proprio il nomignolo e sporca proprio solo la città. Non solo, ma ti do una mezza anteprima, do ai nostri ascoltatori una mezza anteprima, parleremo a brevissimo, mentre sta per uscire un corto documentario servizio sui KNZ, mentre realizzano questo muro, siamo stati lì tutto un giorno a vederli lavorare, quindi affascinati, diciamo, da questa, e che è arte in effetti, uscirà a brevissimo un altro documentario in cui un artista che ha fatto scalpore a Torino, non ti dico di più, sarà presto su Contesti, sia in video che in testo, legato in qualche modo al mondo dei writer, ma di nuovo che si scosta in altri versi, per altri versi, e presenta una sua visione del rapporto con la città, con l'arte, con la comunicazione, perché poi alla fine è fare comunicazione e diffonderla condividendola. Quindi Enrico, tu essendo impegnato, penso 25 ore su 24, col tuo sito Contesti, che è un appuntamento in tempo reale con quello che è il futuro, che già si nasconde tra di noi, insomma, la guardi ancora la televisione? In buona parte no, qualche telegiornale e la pubblicità, perché lancia dei messaggi che ci danno un bello spaccato di cosa vorrebbero farci credere. Ecco. E dico vorrebbero in senso generale, può esserci di tutto, non è una questione politica, è una questione proprio di indirizzare la percezione della realtà in qualche direzione. Nel momento in cui indirizzo la percezione della realtà, cioè non sono onesto, non c'è onestà culturale, perché non dico come la penso e nello stesso tempo cerco di costringerti a pensarla in un modo che a me faccia comodo, che è deviante di per sé. La chiamavano propaganda durante il ventennio. E beh, insomma, Porta a Porta di Bruno Vespa bisogna guardarlo per capire che cosa pensa quello che è di fianco a te sul pullman, più che ascoltare le stronzate che dicono. E così tanti altri programmi, siamo d'accordo su questo, anche perché se voi magari andate su Contesti e fate un vostro articolo e scrivete delle stupidaggini come quelle che dice Bruno Vespa, ci sono altri 50 milioni di persone che ti dicono che sei un idiota, che non capisci niente, di andarti a informare prima di scrivere balle. E questa cosa qua è quella che rende il web grande. Insomma, se si va nel sito, nel blog di qualcuno, può scrivere quello che vuole, ma se si va già in un sito grande di informazione, come quello che ad esempio può essere quello di Marco Travaglio, Beppe Grillo o quant'altro, se scrive una stupidaggine c'è subito chi ti blocca e la realtà è obbligata ad uscire fuori. E Contesti fa proprio parte anche di questo contesto. Non solo, ma ti dico una novità. Dal 1 gennaio, che Contesti ha cambiato piattaforma, diciamo, funziona da meglio, abbiamo aperto la possibilità di collaborare agli altri, ai lettori, ma non come un blog in cui scrivi il commento, bene o male, qualunque cosa, non c'è filtro, perché secondo noi è giusto che venga verificata l'attendibilità, che venga verificato il significato dei contenuti che uno dice, proprio perché chi dice qualcosa, se lo dice che ha un senso, è importante che venga ascoltato. Quindi dove nella home page di Contesti non c'è registrati per la mailing list, registrati per il newsletter, ma nuovo collaboratore, punto interrogativo, cioè se vuoi puoi registrarti, provare a collaborare con Contesti, scrivere dei pezzi che verranno trattati per onestà al pari di un collaboratore che già sta lavorando per Contesti, quindi vengono considerati nello stesso modo e nello stesso modo valutati da una redazione. Ed è chiaro che la qualità del vostro lavoro, di come entra in Contesti, verrà vista da tanta gente, e quindi perché no, si può partire da lì. Sicuramente, anche perché è una testata registrata, quindi... Benissimo, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, ci sarebbero tantissime altre cose da dire su Contesti, ma adesso che sei di nuovo qua a Torino io non ti lascio. Ci risentiremo presto, sicuramente. Non ti lascio di certo scappare così, Enrico, quindi ci ritroveremo al più presto per affrontare altre tematiche che poi vengano rispecchiate in Contesti. Però proprio parlando di Contesti, vedi, questa sera abbiamo parlato della Fondazione Accorsi, abbiamo parlato dello stalking, abbiamo parlato addirittura del principe Maurice e di un DJ notissimo che hanno collaborato alla realizzazione proprio di questo documentario in onore della Fondazione Accorsi. Un altro grande acquisto. Sì. Prego. Un altro grande acquisto che è recentissimo e non si può dimenticare perché sta dando un apporto importante, è che la regia negli ultimi pezzi in video viene fatta, oltre che da me, anche da Stefano Bongiovanni, meglio noto come il Bongio, famosissimo in ambienti tipo Zuppa, che è un nuovo modo di fare pubblicità, che tra l'altro ha anche vinto il Pinguino d'Oro, che è stato lanciato con il Comune di Modena ai tempi, e è stato premiato da Telecom a View Conference proprio per queste pubblicità virali, quindi con nuovi modi anche di rappresentare la realtà che si continuano a interagire e cambiare, perché poi lavorando in due ci si costruisce un terzo modo di vedere le cose che di volta in volta viene mediato da due visioni diverse. Ecco, e quanti anni è che esiste Contesti? L'ultima domanda che voglio farti, abbiamo ancora 2 minuti. È praticamente un anno. A partire da gennaio 2009, abbiamo iniziato a gennaio 2009, c'è stato questo... Evidentemente c'era voglia di ascoltare qualcosa di diverso. Ecco, avete preso sta moto e avete impennato di colpo, senza prendere la rincorsa, perché già ricordo l'anno scorso com'era ben farcito www.contesti.eu. Quindi Enrico, ci vediamo alla prossima e lanciamo magari un appuntamento, così che avviene chissà dove. Prossimo appuntamento, gli speciali su Piemonte Movie, che di cui siamo media partner, che saranno presentati a partire da una intervista a Gianni Volpi che sta per andare in linea nei prossimi giorni. Benissimo, ti saluto, ti abbraccio. Ciao a tutti. A presto. Ciao Enrico. Grazie, ciao.